Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 14 giugno, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sempre su Liberi Dentro ed Uradio e TV, perché siamo sempre anche su Lepida TV, Teletricolore e ovviamente Radio Città Fujiko alle 9 del mattino. Do il buongiorno anche alla mia collega Antonella Cortese, buongiorno. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. Oggi le nostre notizie ci portano a Firenze. Firenze, dalle carceri della Libia all'ospedale Meyer, la storia del 17enne Ahmed. E dopo 2 mesi di ricovero per una gravissima forma di TBC, Ahmed è un nome di fantasia, TBC che lo ha quasi ucciso, questo ragazzo è pronto a ricominciare una nuova vita. Pensate, si è ammalato di tubercolosi nell'inferno delle carceri libiche, perché ha tentato la traversata, come tanti, come lui, del Mediterraneo, ma poi è stato respinto dalla Guardia Costiera Libica. Questo ragazzo di origine somala oggi è vivo per miracolo, tutto è merito dei corridoi umanitari, che come sapete sono uno tra i tanti modelli di accoglienza che gli Stati europei hanno a disposizione come alternativa sicura ai viaggi della disperazione, e che in Italia è attiva questa opportunità già dal 2015. È una vera e propria odissea questa. Eh sì, infatti Ahmed ha lasciato la Somalia quando aveva 14 anni e adesso ne ha 17 e dopo 2 mesi di ricovero al Meyer di Firenze per una gravissima, appunto dicevo, forma di TBC, adesso è pronto a ricominciare una vita e ricordando il suo passato lui ricorda che la decisione di partire, pensa, è stata tutta sua. E solo sua, i genitori e i suoi 9 fratelli non sapevano niente. Si è affidato a un'organizzazione di trafficanti e di esseri umani e si è messo in viaggio. Ha attraversato con mezzi di fortuna procurati dai criminali l'Etiopia, il Sudan, l'Egitto, fino ad arrivare in Libia. Ed è qui, in Libia, che per più di un anno è stato prigioniero, prima in un campo, poi in un appartamento, ed è stato obbligato a trovare denaro per pagare il debito accumulato per questo viaggio. È stato molto coraggioso, c'è una bellissima inchiesta di Fabrizio Gatti su questo passaggio attraverso il Sudan, attraverso il deserto, per poi imbarcarsi. Ma c'è stato qualcuno che l'ha aiutato? Assolutamente sì, c'è stata la sua famiglia che grazie al contributo della comunità locale che si è unita, che si unisce intorno alla moschea, è riuscita a raccogliere la somma di denaro richiesta dai suoi aguzzini. E quindi sappiamo che questo sospirato imbarco di Ahmed non era andato a buon fine perché la Guardia Costiera Libica lo aveva fermato e lui si è, dicevo prima, ritrovato adolescente prima, rinchiuso in carcere e poi in un campo. Ma non soltanto la famiglia, anche la comunità, insomma appunto i corridoi umanitari sono stati veramente eccezionali per riuscire ad aiutarlo dal punto di vista della salute, chiaramente. Senti, e poi è arrivato a Firenze in qualche modo? Sì, è arrivato a Firenze, il suo percorso clinico non è stato per nulla semplice, a seguirlo nel suo processo verso la guarigione è stata un'equipe multidisciplinare di infettivologi, chirurgi, pediatri, infermieri specializzati. E questo percorso è stato possibile, dicevo prima, anche a una rete di soggetti istituzionali e di volontariato presenti sul territorio nella regione toscana che si sono attivati per organizzare l'accoglienza del ragazzo una volta che è arrivato al Meyer. Ora è stato dimesso e sarà accolto in una casa famiglia dove potrà iniziare la sua nuova vita. Ad attenderlo, speriamo per lui, lo studio, diritto allo studio, la lingua, lo studio anche della lingua italiana, ma anche un percorso formativo. Caterina, che cosa ci fa sentire questa settimana? Siamo tutta la settimana con il grande Snoop Dogg e oggi ascoltiamo Drop It Like It's Hot. E lui è nato classe 1971, che questo chiaramente è un nome d'arte, Snoop da Snoopy, questo viso un po' allungato che ricordava Snoopy dal fumetto. Ma il suo nome è Kelvin Cordozar Brodaus Jr. E questa canzone è stata scritta insieme a Pharrell Williams, che è un altro grande produttore rapper americano, ed è uscita nel 2004. Quindi godetevela e ascoltatevelo tutta la settimana. get an attitude. Pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm full of best, cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's in your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like this red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get it. Killer with the B, I know killers in the street. With the feel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy. Trying to ask me, when my figure they ain't gon' pass me. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you make a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm full of best, cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SCNOOPDOUBLEG. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm full of best, cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you wanna. Oh, you gotta, so you wanna back. But now, stop that. Shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Whip you, dip you, then flip you, then dance to this music we to. Subscribe, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm the best. E rieccovi, bentornati sulle note rap del grande Snoop Dogg, sempre su Liberi Dentro e Due Radio TV. E Antonella, oggi parliamo di una notizia molto particolare. Ti dico solo la parola entomofagia. Eh sì, Caterina, entomofagia, ovvero il consumo di insetti. Ti faccio una domanda, tu hai mai mangiato un insetto consapevolmente? No, consapevolmente mai. Poi moscerine negli occhi quando si va in bicicletta, quello sempre, ma non è capitato. Sì, sì, magari avrei anche mangiato qualche moscerino senza neanche accorgertene. Comunque, spesso capita di ascoltare racconti ed esperienze di persone che hanno viaggiato e magari si sono trovati in luoghi dove invece gli insetti vengono consumati regolarmente. Locuste fritte, blatte arrostite o farine a base di grillo. Questi sono solo alcuni esempi. Pensa che ci sono oltre 1900 specie di insetti commestibili e questi vengono comunemente consumati in 90 paesi del mondo, nello specifico 36 in Africa, 11 in Europa e 23 in America. E principalmente gli insetti più appetitosi sono i coleotteri, seguiti poi dai bruchi, le api, immagina, le api si mangiano anche, vespe, formiche, cavallette, locuste e grilli. Diciamo che non sempre vengono consumati per necessità, ma spesso in alcuni paesi sono considerate delle vere e proprie prelibatezze, sono parte della tradizione culturale di certi popoli. E in Occidente gli insetti vengono considerati invece spesso come antagonisti, quindi animali fastidiosi da abbattere, da sconfiggere, spesso In ambito agricolo, infatti, ci sono tanti prodotti proprio per allontanare gli insetti, per esempio le coccinelle o altre cose. E, anzi, vorrei dire che le coccinelle sono tra gli animali insetti buoni, come anche le api, ma poi ce ne sono altri che invece mangiano proprio le verdure, quindi sono un disastro. Ma e allora se vengono consumati la qualità di questo cibo esiste? Cioè potrebbero sostituire tranquillamente la carne di maiale o di manzo, proteine per proteine? Praticamente sì, guarda, è proprio un investimento questo, perché nei prossimi 30 anni la FAO, che è Food and Agriculture Organization, ha previsto un raddoppio della richiesta di carne, quindi si passerà dai 229 milioni di tonnellate attuali a ben 465, quindi veramente una crescita esponenziale, provocando un aumento di emissioni di gas serra e anche lo sfruttamento di più risorse come terreni e acqua, ovviamente. E nel tempo è nata quindi questa idea un po' particolare, che è quella di sostituire le proteine animali ottenute da appunto questi animali grossi, grandi, che consumano e inquinano, con il consumo di insetti. E una notizia veramente recentissima, che risale al 3 maggio 2021, ci arriva appunto dalla Commissione europea, che ha accettato di dare il via libera alla commercializzazione di questi insetti come alimenti. È la prima volta che viene approvata la vendita e il consumo di un insetto come cibo in Europa. Ed è anche stato stimato che ogni anno una persona consuma circa 500 grammi di artropodi presenti nel nostro cibo sotto forma di contaminanti alimentari. E la legge italiana ne tollera una piccola quantità, una piccola percentuale. Per esempio, i lepidotteri negli sfarinati o i curculionidi nei cereali, oppure alcuni coleotteri tra frutta secca, spezie e cacao. Per questo, quando ti ho chiesto: hai mai mangiato degli insetti? Beh, li avrai mangiati sicuramente anche tu. E Antonella, quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi di consumare insetti a scopo alimentare? Allora, i vantaggi sono tantissimi. Per esempio, l'ecosostenibilità. Infatti, l'allevamento di insetti sostituirebbe completamente quello di suini, bovini, pollame, che comporterebbe quindi un minore rilascio di gas serra in atmosfera e un minore utilizzo di acqua. E anche lo spazio necessario per un allevamento, certo non servono praterie per allevare gli insetti. In più, in concomitanza alla CO2 emessa, con gli allevamenti zootecnici aumenta anche il rilascio di altri gas inquinanti, come il metano e il biossido di azoto, provenienti rispettivamente dalle fermentazioni gastriche, dei ruminanti e delle deiezioni dell'urina, chiaramente. Un'altra cosa è proprio l'economia circolare che se ne avvale, perché voi sapete che gli animali, gli insetti, crescono, diciamo, in prossimità dei rifiuti dei quali si cibano, e quindi anche l'organico diventa, diciamo, una zona in cui, un'area in cui possono prosperare questi animali. Bellissimo questo approfondimento sugli insetti perché parlando di economia circolare è ciò di cui abbiamo veramente bisogno, soprattutto per avere cura del nostro pianeta. La traccia musicale di oggi e di tutta la settimana qual è? Allora, oggi cominciamo ad ascoltare Boubacar Traoré, che è un chitarrista maliano, e con la canzone Yaffa Ma. È bellissima, ascoltatela. Ne ya fo kone bede ni fe yo ke su bakasiye yo ke tile bakasiye ja ja ya fanema ja ja malabiluma ne wara su fe parola ne wara su fe parola yemina kambolo tonomi yemina kambolo tonomi ja ja su fe parola ja ja su fe parola Fama danyamo ya fama ya fama deniyo ya fama ya fama ya fanema ya fama malaviloma ya fon kone bedeni fe ne ya fon kone bedeni fe yo ke su bakasi. Ciao a tutti, qui è Lorenzo e per la pillola di oggi parleremo insieme all'educatrice sociale Sara Malagoli. Via con la pillola! Allora, ciao Sara, ben ritrovata qui per questa pillola di contenuti per Liberi Dentro Eduradio. E ciao! Buongiorno, buonasera. La prima domanda che noi ti facciamo è di descriverci in sintesi il significato e l'operatività del progetto di Mittendi. Ok, allora io se dovessi proprio sintetizzare anche al massimo quello che è il progetto di Mittendi e un po' l'obiettivo, quindi anche insomma, il suo significato, è proprio quello di creare delle opportunità e alternative e per le persone in uscita dal carcere o per chi è uscito di recente dal carcere, cioè nei 6 mesi successivi alla dimissione. E quindi creare opportunità alternative per non trovarsi nella condizione di prima. Questo è un po' la grande, mi viene da dire, missione di questo progetto. Per raggiungere questo obiettivo, che è molto grande, ci sono diversi strumenti. E quindi questi strumenti poi nell'operatività si concretizzano con lo strumento principe, in realtà, che è proprio la conoscenza di queste persone. Quindi delle persone che all'interno del carcere, ecco, il servizio quindi è diciamo in 2 fasi si sviluppa, una fase all'interno del carcere e una fase all'esterno. All'interno quindi è di conoscenza dei detenuti che nei prossimi 12 mesi usciranno. Quindi il tentativo è proprio di conoscere tutti loro, le loro situazioni, e quindi questo è una fase che insomma parte con la raccolta di informazioni, dato che all'interno del carcere siamo in stretto contatto con diversi professionisti che già conoscono i detenuti da tempo. Quindi una prima fase è proprio intanto osservare la lista delle persone in uscita. E raccogliere informazioni, raccogliere segnalazioni, quindi avere già, cioè molto spesso capita che siano proprio i professionisti che già li conoscono, che ci segnalano queste persone che maggiormente avrebbero bisogno di un accompagnamento all'uscita, di una tutela. E, quindi, fatta questa raccolta di informazioni, poi si procede con i colloqui all'interno delle sezioni per conoscere e parlare con le persone direttamente, presentare il nostro servizio e raccogliere proprio il bisogno, cioè capire da loro direttamente cos'è che in quel momento così ravvicinato rispetto all'uscita è per loro importante. E in base a questo poi si ragiona con la persona per trovare delle possibili soluzioni con gli strumenti che sono a disposizione. Adesso invece è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo prestissimo. Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, da noi più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da. Dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Ogni persona di fatto poi porta una situazione a sé, per cui davvero per ogni persona poi si studia insieme che cosa è bene fare, ecco, come procedere. E sempre in raccordo con i professionisti che già li conoscono all'interno del carcere e con poi anche una fase di raccordo invece all'esterno con i servizi che la persona incontrerà uscendo. E l'altra parte importante quindi è definire in che territorio la persona ha intenzione anche di stabilirsi, dato che per esempio nel carcere di Bologna ci sono molte persone che non hanno intenzione di rimanere a Bologna, ma hanno intenzione di tornare nel proprio territorio di provenienza o nel proprio centro di interesse dove ci sono i legami familiari o amicali o insomma il loro, come dire, la loro, insomma, quello che il luogo che vogliono raggiungere. Chiaro, molto chiaro. Semplicemente. Certo. Sì. E questa è un po' così detta molto generalmente la parte che facciamo dentro. E di accompagnamento, se necessario, quindi poi al fuori. Il fuori sono sempre io, quindi io svolgo i colloqui all'interno come assistente sociale e anche all'interno del servizio sociale Bassa Soglia, e quindi da lì, dall'esterno poi inizia una nuova fase comunque, perché sempre c'è questa grande distinzione tra interno ed esterno, cambia sempre molto la prospettiva. E quindi anche all'esterno gli strumenti poi sono il colloquio, è lo strumento principe, perché comunque il dialogo con la persona, il ragionamento insieme è quello che permette di costruire un percorso condiviso e realizzabile. E quindi ecco, questi colloqui permettono davvero di poi utilizzare gli strumenti e le risorse più adeguate alla situazione specifica. Chiaro. Anche per oggi il nostro intervento termina qui, ci rivediamo comunque presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi come sempre di iscrivervi a Liberi Dentro Eduradio per qualsiasi domanda o richiesta per le prossime puntate. E rieccovi, bentornati, abbiamo appena ascoltato Sara Malagoli del progetto di Mittendi, intervistata da Specità di Bologna. Noi vi ricordiamo sempre di scriverci redazione liberidentro@gmail.com oppure attraverso la posta Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, indirizzato a Liberi Dentro Eduradio. E non perdetevi il laboratorio tra poco, se ci state seguendo su Lepida TV con Avoc Voci da Dentro, oppure alle 17 su Teletricolore e sempre la mattina alle 6.30 su Radio Città Fujiko. Buona giornata a tutte e tutti, un ringraziamento a Antonella Cortese e a Pasquale Pitagnello in redazione con noi al montaggio delle nostre puntate. Buona giornata e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.